Tempo di sport con Carlo Genta. Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Era una gara molto più difficile, una gara comunque dove bisognava tirar fuori qualcos'altro. Adesso comunque il tempo non lo sto tanto a guardare, sicuramente ci sarà da lavorare molto di più su dei passi un po' più veloci, però insomma l'importante era portare a casa l'oro e riconfermarsi. Bene, sono contenta, devo dire che più che altro oggi l'ha fatta il cuore e la testa, perché insomma sono contenta. Devi venire con noi, siamo ragazzi. Buongiorno a tutti, anche la voce di Scozzo che tra poco vi facciamo sentire. Franco Piantaneda, autore di questo ormai delirante programma, 800240024, numero verde. E dunque, ragazzi di oggi, Mauro De Angeli in regia naturalmente, linguacce, corna, tatuaggi, flirt sotto i riflettori, enorme talento, faccia di tolla di conseguenza. Federica Pellegrini, classe 88, così come Fabio Scozzoli, che ha appena conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana alle spalle del brasiliano da Silva, che somiglia come una goccia d'acqua a Ronaldo. Non so se l'avete visto. Federica Pellegrini, 50 metri gli ultimi di questi 200, davvero da leggenda, davvero da regina spietata. Poi ha detto: nessuno entra a casa mia, i 200 metri sono casa sua. Infatti nessuno era mai riuscito a bissare su questa distanza, nessuna era mai riuscita a bissare l'oro mondiale su questa distanza. Lei ce l'ha fatta, più che storia leggenda, anche se la retorica la detesto. Federica Pellegrini e Fabio Scozzo di classe 88, Alexander Pato classe 89, Mario Balotelli classe 90, guardiamoci negli occhi anche se non ci vediamo, chi non vorrebbe essere come loro? Vi sfido su questo tema, e questi sono i temi che tratteremo oggi, cominciando a parlarne con un collega che lavora per molte testate, da Max Manettiferra, Panorama, Sport Week, autore televisivo per Chiambretti Night, autore soprattutto di un libro che si intitola Mario Balotelli Negrazzurro, la vita difficile di un ragazzo impossibile. Raffaele Panizza, buon pomeriggio, ciao. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, grazie. Senti, partiamo dalla cronaca più stretta. Federica, che ha chiuso la storia molto pubblica con Marin, ma non il flirt con l'oro. Ragazza di oggi, esulta facendo il gesto delle corna dedicato a quegli squilibrati degli staffettisti azzurri, come ha detto lei. Linguacce, grande personalità, è una ragazza di oggi che insomma penso tutte quante vorrebbero magari emulare. Beh, insomma, dai, questa cosa di dire nessuno entra in casa mia credo che la discosti un pochino dai ragazzi di oggi, insomma, questa determinazione così cieca, così esclusiva, cioè crearsi un feudo, no? Il feudo della propria performance, che rispetto al quale ne va anche della propria identità in qualche modo. Cioè Federica è in quanto vincitrice, quando non vince anche lei, no, si perde, le crisi d'ansia, le crisi di panico, sì. Quindi insomma questo la rende qualcosa di diverso dai ragazzi di oggi. La cosa che li accomuna tutti appunto è questo vibrare, insomma, delle corde dell'anima, che a tutti e tre li scombussola. Anche Pato, quando non è Pato in love, fa fatica, no? Quando piace, non c'è il cuoricino. Ti confesso che io ho un debole per questa storia di Pato a Villa Certosa con la figlia del capo, che poi racconteremo nei dettagli in versione cinematografica. So no, ma almeno io, però. No, anche perché così. Poi se notate la foto è talmente sgranata che qui l'hanno presa veramente da 300 km. Qui un premio a chi costruisce quegli obiettivi, perché siamo veramente probabilmente dalla Corsica l'hanno fatta quella foto lì, perché non. Veramente. Sì, dall'aereo. Senti questo rumore. È la Darley che parte, caro Raffaele, quella di Mario Balotelli, magari gliela fanno accendere dopo quella sciocchezza che ha fatto in amichevole, quel tacco. Lì è stato, veramente uno spasso. Se non lo sono riguardato mille volte per capire se aveva ragione Beckham dicendo che credeva di essere in fuorigioco, ma no, credo proprio che non sia così. Io sono più portato a pensare che nella sua testa, non lo so, o è scattato il troppo facile, cioè lì si è infilato così nella difesa del Galaxy come il burro. Vabbè, non cercarmi giustificazioni, non esistono. No, ma io gliel'ha detto Raiola, che peraltro è un altro bel tema dell'estate, che fine ha fatto Mino Raiola, anche di questo oggi parleremo come sempre. Beh, probabilmente è stato schiacciato da Ibrahimovic, gli ho visti andare in giro assieme, gli dà un bel 70 centimetri, si sarà seduto su Mino Raiola, Ibrahimovic, e lui è ancora lì che cerca di riprendersi. No, non lo so, guarda che non è così assurda, perché avendo parlato con tutti i suoi allenatori di quando era ragazzino, sì, a Lumezzane, lui quelle cose spesso te le fa apposta. Sì, non so se questo è il caso, però bisognerebbe essere nello spogliatoio. Ma se Mancini gli avesse detto qualcosa che gli è girato storto, lui quella magari gliela ha fatta apposta, non segnargliela, capito? Cioè, nella sua testa lui le cose te le promette e poi te le fa. L'ha fatto anche sui campi giovanili, magari punire l'allenatore per una panchina o per una punizione subita la settimana prima, e davanti alla porta tagliarlo, no? Il gol più facile, ma magari puoi farlo al 90esimo da 40 metri. Ma guarda, io ho un'immagine di Balotelli, che è un gol che fece ormai anni fa a Udine, tra l'altro un gol importantissimo in prospettiva scudetto, con una palla che arrivava da destra, ha palleggiato con la suola e ha sparato una bomba da 20 metri. Quelle cose non te le insegnano, non le impari, non le alleni, quelle cose sono scintille di talento assoluto, però sai che c'è questo sondaggio che imperversa, ad esempio sul sito della Gazzetta, potenziale fuori classe o talento sprecato, tra auto distrutte, tra Harley Davidson in garage, soldi buttati, gol segnati o gol mangiati a Morazzi, tutto questo è una domanda che mi faccio anch'io, pur stravedendo per Balotelli come giocatore. È cercare di, così, questo qui è un piccolo dovere giornalistico, poi chi se ne importa, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di un milionario, quindi no, rilassiamoci, però far entrare tutto nel computo delle ballottellate potrebbe non essere giusto. Per esempio questa potrebbe non essere una ballottellata, insomma ha fatto una stupidaggine. Possiamo discutere sul fatto che lui viva ancora in un calcio da oratorio, e questa è un'altra cosa, così mi permetto vagamente, da storico di Balotelli, tutti mi hanno sempre detto, cioè non ha mai percepito i passaggi da quando si fa per finta, quando si fa sul serio, ecco, questa cosa gli è sempre mancata nel passaggio dal Lumezzane all'Inter, dall'Inter di campionato all'Inter di Champions, dall'Inter al Manchester, gli manca questa cosa qui, cioè lui gioca sempre all'oratorio ed è quello che gli permette di non sentire nessun friccico nel cuore se si batte un rigore a San Siro, perché non sono alle cronache, diciamo, emozioni particolari di debutto. Questo è uno che ha debuttato, segnato la doppietta, no? Con la regina in Coppa Italia, c'è uno così, e quindi questa cosa qui forse gli manca. Lui credo che dovrebbe finire al Brescia, guadagnare 800.000 euro all'anno, diventare ricco con gli sponsor, pigliarsi le soddisfazioni con la nazionale e piantarla di stare in un mondo che forse non gli appartiene. Insomma, non è valido scegliere una cosa così nella vita, cioè bisogna finire tutti al Barcellona, cioè me lo chiedo, So, bisognerebbe chiedere a Mino Raiola non fosse scomparso. Quando torna, se torna. Se non ero scomparso, ho avuto un infarto sentendo questa cosa. Perché bravo. Il 15% di 800.000 ti ricompri la Mercedes, però voglio dire. Cioè, io lo dico per il suo bene. In fondo, forse non è fatto per quelle platee, per quelle pressioni. E chi se ne importa, insomma, no? Cioè, nel senso, si può essere felici. Stiamo discutendo di un limite, però, ovviamente. Questo è un limite. Vabbè, per uno che ha il suo talento. Ma al suo talento, però, che ha al suo vissuto. Cioè, ragazzi, questo, noi non ci dimentichiamo la conversazione di mamma Balotelli con il grande Candido Cannavò, che parlava di un ragazzo con un buco nel cuore. Cioè, ricordiamoci, c'è, cioè, un ragazzo conteso tra due famiglie, un ragazzo che trova la sua zona di comfort psicologica nel rifiuto, paradossalmente, cioè, perché è la prima dimensione umana che lui ha conosciuto. Sicuro. Che sia vero o non sia vero, è così. Cioè, la famiglia Barois non ti racconta che l'ha rifiutato, ti raccontano che era in difficoltà, che l'assistente sociale gliel'ha portati via, e c'è sicuramente del vero, però il bambino percepisce che il sangue del proprio sangue l'ha allontanato, ecco, quindi la sua zona di comfort, come dicono gli psicologi, è quella. E poi ci sono sicuramente problemi di iperattività, sì, dimostrati da bambino all'asilo, quando lo facevano correre intorno all'asilo perché non sapeva star fermo. Sì, l'allenatore, no, qualche problema ce l'ha. Questo non c'è dubbio. Raffaele, io ti ringrazio, è stato un piacere. È stato un piacere chiacchierare con te, Raffaele Panizza. Sarà un piacere anche chiacchierare con i nostri ascoltatori, almeno quelli che non vogliono la tattica, le amichevoli d'agosto e certi discorsi un po' noiosi sul calcio. Queste pippe le rimandiamo, invece parliamo di altro. Col sorriso sulle labbra, se vi fa piacere. C'è chi tra gli ascoltatori invia un sms dicendo: 52 anni e un simil Mario di 24 in casa, cosa avrà mai fatto? Una gadanata? E papà Mancini l'ha punito, né più né meno di come faccio io, scrive Federico da Alessandria. Claudio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Stia lì, allora... che aspetti perché io voglio partire con la prima puntata. Pato e Barbara, qual è la verità? Sai che cosa ho pensato? Che io potrei andare in albergo a ripulirmi un po'. E tu invece vai dai tuoi a dargli la notizia. Oh, John. Li vuoi conoscere? Vieni a conoscerli, no? Prima lo facciamo e meglio è, mi pare. La mamma non sarà alla galleria, sarà fuori a colazione e papà è in ufficio. Probabilmente non li vedremo fino a stasera. Il fatto è che potresti aver sbagliato. Era meglio se facevi un telegramma. Pensa che bel divertimento sarebbe se non fosse per niente come hai detto tu. Ma vuoi che dopo 23 anni che viviamo insieme io non conosca mio padre e mia madre? Speriamolo. Non ci sono problemi. Dunque comincia così, ma poi abbiamo altre puntate, quindi state con noi. Allora Claudio, dicevamo? Buongiorno. Una considerazione rapida e forse superficiale. Io resto un po' basito dall'accostare due atleti come la Pellegrini e Ballottelli, che in comune hanno forse l'anno di nascita, nel senso che quando si va a vedere la professionalità, l'abnegazione, ma è evidente, non so perché i personaggi del calcio e gli eroi del calcio restano sempre sconfitti. Sì, c'era stata anche una polemica a distanza, ma è evidente, Claudio, che l'accostamento nasce soltanto dalla vicinanza anagrafica, no? Una 88, l'altro 90, poi c'è Scozzo che mi sembra quanto di più diverso da Balotelli. Sono anche ragazzi che i due del nuoto, soprattutto Federica Pellegrini, che è regina del mondo, che hanno raggiunto quelle vette. Balotelli invece si fa sostituire dopo che fa quelle stronzate in un amichevole, no? Quel gesto senza senso. Quindi come si fa ad accostarli se non esclusivamente dal punto di vista anagrafico? Sono ragazzi di oggi, hanno anche personalità molto diverse, però sono figli del loro tempo, anche dal punto di vista dell'immagine. Questo può essere un unico altro accostamento possibile, non certo dal punto di vista né del valore assoluto né dei risultati raggiunti. Va da sé questo, Claudio. Specialmente oggi era importante sottolineare la differenza di professionalità anche con le sue caratteristiche, diciamo, istrioniche, di una campionessa che sta sul tetto del mondo come la Pellegrini, insomma. Sì, ma non c'è dubbio, le differenze sono tutte le altre, i possibili punti di contatto sono quelli che ho detto, altro non c'è, non possiamo, mi verrà mai in mente di dire che la Pellegrini è il Balotelli del nuoto o viceversa, perché questa sarebbe la più grossa delle sciocchezze. Mario Salerno, buongiorno. Buongiorno, dica. Senza, io praticamente volevo sapere, come mai non parlate delle Olimpiadi militari dove i nostri atleti si sono comportati in un modo egregio? Ci attrezzeremo anche per le Olimpiadi militari, però sa bene che insomma le nostre sono discussioni di sport in cui funziona così: se uno vuole parlare di una cosa, a prescindere dall'argomento da me buttato lì, telefona e ne parla, racconta quello che vuole, perché funziona in questo modo. Ieri c'è stata anche una telefonata molto molto divertente a proposito di dire quello che si vuole, perché questa è una agorà, è una piazza aperta, è un happening. C'era stato Lillo da Torino. Non sopporto questo Dolce Gabbana, volta faccia, perché comunque Dolce adesso Gabbana, tutti che ce l'hanno contro l'Inter, sembra che l'Inter abbia escogitato tutto l'oro. Non solo sapere questo, la ringrazio, salve, buona giornata. Grazie a lei Lillo, bisognerebbe chiedere a Dolce Gabbana perché succede questo. E Dolce Gabbana, quelli dell'Inter sono dei Dolce Gabbana. 800 24 00 24 è il numero verde, naturalmente lo schema è libero per i vostri interventi. C'è chi fa anche il difficile, no, sugli argomenti. Io sono convinto che questa storia, questo flirt tra il centravanti e la figlia del capo, tutti la sbirciano dal buco della serratura. Poi magari negano: no, ma non è vero, a me non interessa, siete dei superficiali, siete dei venditori di fumo. Invece, se guardate attentamente dentro di voi, vi interessa. Seconda puntata. È così, così calmo e poi sicuro di sé. Non ha incertezze di nessun genere. Sa bene in che cosa credere. Sa sempre quello che è giusto e perché. E che cosa deve fare. Mamma, c'è un'altra cosa che devo dirti. Lui è già stato sposato. Dottor Prentice, sono tanto contenta di conoscerla. E io sono felice di conoscere lei. Mi immagino che Giovanna le abbia già detto la grande nuova. Beh, sì. Mi ha detto varie cose piuttosto sensazionali. Seconda puntata, Franco Piantanide è l'autore di tutto questo. Prendetevela con lui, anzi con me, prendetevela con me, perché a me diverte moltissimo questa cosa. Carmine da Salerno, buongiorno. Buongiorno. C'è chi dice: parlate di calcio, come se fosse un argomento da trattare. Mamma mia, con tutta la serietà del mondo. Cosa parliamo, delle amichevoli di luglio? Se volete, sì, parliamo del chiacchiere di mercato, stiamo per farlo, anche quelle mi divertono. Ma parliamo di tattica? Ma dica. No, parliamo di nuoto, celebriamo la Pellegrini. Sì, anche Scozzo. Anche Scozzo che è stato. Prima è stato la Pellegrini, perché è una campionessa eccezionale, è veramente grandissima. Io non ho avuto la fortuna di vedere la gara di oggi, ho visto quella del 400. È eccezionale. Poi mi è piaciuta anche l'intervista di dire che guarda, il campo oggi, tuo, sì, e non quella... deve entrarci nessuno. Sì, questa è casa mia e nessuno provi ad entrarci, ha detto Federica con grandissima personalità. A me piacciono gli atleti che, insomma, che hanno anche questa faccia tosta, no? Che possono esporsi, che si sentono così forti da potersi esporre. Secondo me quella di oggi è stata la gara più grande che ha mai fatto. Può essere che io abbia la memoria corta, che ovviamente non è stata una gara da record, ma su tempi diversi. Però negli ultimi 50 metri, per come ha nuotato Federica Pellegrini negli ultimi 50 metri, ha detto proprio quella cosa lì. Cioè ha detto: voi provate a entrare e io vi sbatto fuori con quest'ultima vasca. È stato qualcosa di straordinario. Claudio, provincia di Benevento, buongiorno. Buongiorno, grazie per la possibilità. A lei. No, niente, siccome io ho la fortuna di aver giocato un poco a calcio, ho fatto una finale di campionato primavera a Firenze un poco di tempo fa, e io sono stato tanti anni nel volontariato. Io sono tutta la vita a favore di Balotelli per un semplice motivo: perché il ragazzo ha un profilo psicologico chiarissimo. Il ragazzo vuole essere amato per ciò che sbaglia, e in più mi ha dato una conferma quel gentile giornalista, che praticamente era uno che scriveva di un ragazzo di 22 anni. Il ragazzo vuole essere amato per quando sbaglia, non per quando, e ha ragione lui. Non gli interessano i soldi, è vero che lui brucia tutto, brucia macchine, brucia moto. Il ragazzo è solo un ragazzo di 20 anni e in un mondo che probabilmente non capisce tutto qua. Sì, però Claudio, capisco voler essere amato per ciò che si è, però insomma siamo nel campo anche del professionismo, quindi ci sono anche delle responsabilità. È chiaro che il mondo del professionismo sportivo ti obbliga a crescere molto in fretta, no? E ad assumere di conseguenza responsabilità qualche volta più grandi di te. Dall'altra parte offre indubbi vantaggi che tutti conosciamo bene, ma nessuno discuterà mai, io credo, un errore tecnico di un giocatore. Quello che uno può discutere sono certi atteggiamenti, come quello dell'altra sera in quella amichevole. Quello non è stato altro che un atteggiamento fuori luogo. Quindi insomma, non mi sembra a caso nemmeno di entrare nel mondo della psicologia o della filosofia. Ha fatto una stupidaggine colossale in una partita che sarà anche stata amichevole, ma con i soldi che girano di amichevole non c'è più nulla, e Mancini lo ha trattato di conseguenza. Quindi non possiamo nemmeno giustificarlo per questi suoi atteggiamenti. 800 24 00 24 è il numero verde. Oggi naturalmente avremo in chiusura anche una ricca pagina sulle nostre ultime lezioni di surf che chiuderemo oggi. Abbiamo provato anche ad imparare in quest'estate bizzarra, pensate un po', ad andare al surf via radio. Non so se ci siamo riusciti, io non ancora, però giuro che ci provo fino a quando non riesco a salirci. Oscar da Padova, buongiorno. Buongiorno, volevo dire due cose. Volevo ringraziare la Pellegrini per quello che ha fatto, per quello che fa per l'Italia, e dirgli brava. Perché io ho avuto due figli che hanno fatto per 11 anni in moto e onestamente non sono più capace di guardare le gare di nuoto, però gli dico bravissima e grazie. E poi sono juventino, volevo dire una cosa solo, perché mettiamoci una pietra sopra al discorso Calciopoli, andiamo avanti e forza Juve. Non so se mi sono spiegato. Si è spiegato perfettamente, Oscar. Io la penso come lei, sarebbe bello che ce ne fossero degli altri, ma non credo non siamo neanche la maggioranza. Non a dire forza Juve, ma a dire mettiamoci, proviamo a guardare al futuro invece che costantemente rivolti all'indietro. Ormai ricevo SMS e proposte e suggerimenti e risposte, no? Anche prima dell'inizio della trasmissione, su uno dei casi dell'estate, sul tormentone settimanale che mi fa star male dentro. Che fine ha fatto Mino Raiola? Ditemelo se avete notizie. Ma quello che penso me lo tengo per me. Io direi di farti i fatti tuoi. Quello che dico lo tengo per me. Questo è voce d'archivio di Mino Raiola, perché ormai ci sono solo voci di archivio dopo che ha parlato ogni giorno per ogni estate. Adesso è veramente sparito. Cosa diciamo del grandissimo Sette Bello, domanda un ascoltatore, che è grandissimo aspettando la semifinale di domani, mentre l'unica notizia un po' così di oggi dai mondiali di nuoto è questo KO dell'Italia con la Grecia, del Sette Rosa, delle ragazze, in semifinale dunque si fermano in una corsa che è stata straordinaria fin qui, 14-11, e dunque l'Italia giocherà comunque la finale per una medaglia che sarà quella di bronzo. C'è chi ci dà dei bigotti, pensate un po'. Se vi dico le cazzate che ho fatto io a 22 anni a confronto Balotelli, è un chierichetto. Sì, caro ascoltatore, sarà anche così, però credo che il ruolo sia stato diverso. Non so se lei faceva il calciatore professionista nel Manchester City. Intanto un altro ascoltatore, Andrea da Pinerolo, scrive: secondo me Raiola tra poco farà il paggetto a Pato e Barbara. Che diavolo sta succedendo? Abbiamo sbagliato tutto. Io te l'avevo detto, no? Cosa gli avevi detto? Cosa? Senti, Cristina, se tu non mi spieghi subito a che razza di gioco state giocando, glielo posso spiegare io, Mr. Drayton. Ah sì? E me lo spieghi? Joanna e io non ci siamo solo conosciuti alle Hawaii, siamo stati molto insieme. Per l'esattezza, sempre insieme. Insomma, il problema è questo. Io mi sono innamorato di sua figlia. E per quanto incredibile sia, lei si è innamorata di me. E così siamo venuti subito a San Francisco per sentire se loro hanno qualcosa in contrario al nostro matrimonio. Ho ben due ascoltatori che scrivono che Mino Raiola sarà il nuovo ministro della giustizia, uno da Pistoia e l'altro da Trieste. Paolo Bargigia da Mediaset, buongiorno Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Che notizie hai di Mino Raiola? No, Mino Raiola c'è, anche se appare meno, nel senso che pochi giorni fa... Perché non parla più Paolo? No, beh, intanto volevo localizzartelo. Qualche giorno fa ha concluso il trasferimento di Kasami, questo giocatore, dal Palermo al Fulham. Sì. Quindi c'è. Esiste. Ma non parla più perché non ha da gestire situazioni bollenti come ha fatto negli ultimi estati per il momento. Vale a dire che aveva iniziato con la vicenda Amsic, ma poi è stato stoppato dal Milan, non ci sono le condizioni, quindi gira per l'Europa, cerca di fare operazioni, magari non sempre grosse, perché quella di Kasami non è un'operazione clamorosa, però diciamo che il suo cavallo di battaglia da cavalcare, il casino organizzato, per il momento non c'è e quindi non lo sentiamo. Ho capito, quindi è un'assenza programmata, è un'assenza dettata da strategie di mercato. È un'assenza dettata dalla povertà del nostro calcio, se vuoi anche un po' dalla miseria, dove quindi avendo poche idee e di conseguenza poche risorse, non è pane per i denti di Raiola in questa fase. Sì, poi magari magari gli ultimi giorni del mercato il Milan, che è la squadra che lo utilizza molto come consulente, magari si inventerà qualcos'altro. Difficilmente, se non è impossibile, credo che venga riaperta la faccenda Hamsik. Sì. E quindi si dovranno inventare qualcos'altro. Paolo, sì. Siamo amici, ci conosciamo da molti anni. Dimmi la verità, la primissima cosa che hai pensato, visto che ne stiamo parlando oggi, dopo quel tentativo di colpo di tacco di Mario Balotelli? Ma io ho sentito un po' di discussioni. Senti, io vorrei darti un altro argomento, sì, per evitare un po' di rifare il canto alla varietà di opinioni che hai raccolto, no? Se vuoi, dalle più interessanti alle meno, dalle più demagogiche alle meno. Io ti voglio ricordare un episodio che ti fa capire come a volte anche su Balotelli la nostra categoria non ha delle colpe, ovviamente, perché non è che gestiamo o siamo i tutor di Balotelli, sì, ma ci riempiamo di demagogia, sì, e di ipocrisia. Ti ricordi quando, se non sbaglio, a febbraio, non ho carte e documenti davanti, addirittura un nostro collega sulla Gazzetta dello Sport, che risponde al nome di Luigi Garlando, che su molte cose è bravo, interessante, acuto, fece insieme al suo giornale una battaglia per settimane per proporre nell'amichevole che avrebbe avuto la nazionale nei giorni successivi, se non sbaglio eravamo a febbraio, di dare la fascia di capitano, sì, ricordo, a Balotelli, mischiando le esternazioni di qualcuno che per far casino, qualche ultra del Club Italia, aveva detto, insomma, non riconosciamo italiani neri, aveva fatto qualche addirittura Balotelli, capitano dell'Italia in una partita come risposta al razzismo, no? Che già, secondo me, impegnarsi in un excursus del genere, capisci quanto anche noi a volte siamo ipocriti e facciamo della demagogia. Tra l'altro queste cose, secondo me, non aiutano a fare chiarezza e a riflettere intorno a Balotelli e a Balotelli a fare delle riflessioni. Se mi dici cosa ho pensato, ti dico niente di nuovo, visto che noi tra l'altro siamo amici e viviamo anche nella stessa città, non ti hanno mai raccontato di quando Balotelli fa dei blitz a Pavia, sì, sì, non soltanto per farsi curare il ginocchio, ma per farsi dei giri e parcheggia la macchina sul marciapiede del Bar, sì, Minerva, sì, che chi, sì, ci ascolta, sì, non è obbligato a sapere dov'è, sì, sì, però, cioè, stiamo parlando di un personaggio che si commenta da solo, ma chi se ne frega, cioè, perché dobbiamo avere un'osservanza o dei timori ad esprimere delle idee, anche quando facciamo informazione, solo perché è un calciatore famoso? No, ma cioè, di sicuro, se ne facesse uno normale, dicono che, cioè, una volta ci parlavano gente da riformatorio, ti ricordi, no? Sì, no, ma sono sciocchezze di uno che ha infinite possibilità. Resta la domanda: potenziale fuori classe o talento sprecato? Perché che abbia un talento fuori dal normale è indiscutibile. Ma senti, sì, però, cioè, il discorso è anche questo. Secondo me lui sul campo, al di là di alcuni sprazzi che non sono durati più di 3-4 domeniche, e vado indietro con la memoria a quando l'Inter poi vinse il campionato, l'ultimo con Roberto Mancini, no? Quando lui tenne in piedi un po' l'Inter perché non c'era Ibrahimovic, poi rientrò Ibrahimovic e fece gol nella partita scudetta a Parma, ti ricordi? Sì, certo. Ecco, lì a sprazzi Balotelli si rese utile, ma poi anche sul campo, cioè quando ha fatto il top player, cammina con le mani sui fianchi, mai con continuità, mai con continuità, altrimenti alla testa bassa, sì, cioè, sì, dove sono i colpi, no? Cioè, noi, voglio dire, viviamo di luoghi comuni, no? Cioè, questo è un fenomeno perché a 16 anni giocava nel Lumezzane in Serie C, perché poi non gli ha neanche quasi più fatto fare partite in primavera perché faceva la differenza, e poi basta, non ha più giocato. Cioè, è come dire che adesso Cassano è un fenomeno. Cioè, io non ho capito perché su certi giocatori, su certi aspetti nella vita c'è coerenza e c'è temporalità dei giudizi. Con questi giocatori mass mediatici mai. Sì, sì. Balotelli quando è stato un top player? No, ma sai, poi il calcio è bello perché consente discussioni di questo tipo e ognuno il suo punto di vista ce l'ha. Secondo me ha fatto sempre a sprazzi, mai con continuità, due stagioni in cui ha fatto vedere lampi di talento vero, l'ultima di Mancini e la prima di Mourinho, e poi è stato inghiottito dai suoi problemi. A sprazzi, però sai, comincia a togliergli. Che uno che non ha, che non sacrifica, che uno che non rincorre, che uno che, voglio dire, le giocate normali non le fa, che appena lo provo che si fa buttare fuori, cioè che garanzie ti dà in una squadra, voglio dire, trattiamolo per quello che fa e per quello che è, sì. Cioè, secondo me, cioè valutiamolo, io lo valuto così, non me ne frega niente concettualmente, cioè continui pure a fare, no? Cioè voglio dire, del resto, cioè la vita è sua, no? E di chi gli sta intorno e di chi lo gestisce. Cioè, voglio dire, se poi smette di farlo, cioè, voglio dire, buon per lui. È chiaro che bisogna essere anche onesti nel dire che alla nostra categoria fa molto gioco perché fa titoli, no? Questo è indubbio, senza nasconderci dietro a un dito. È chiaro che personaggi come Balotelli, magari non strettamente a me a te, ma fanno comodo e poi soprattutto fanno discutere, ma in questo non trovo niente di male o niente di perverso. Ma i geni e sregolatezza nello sport hanno sempre affascinato e ci sono sempre stati, però io non credo che lui sia un genio del calcio. No, genio no, genio no. Sia uno che per l'età che aveva e per la fisicità che aveva, a 16 anni giocava con i grandi e faceva la differenza. Ma adesso che la fisicità è finita e che pare agli altri, più o meno, cioè è un giocatore a cui mancano un sacco di cose. Fortunato lui, no? Che è entrato in quella canale per un anno e mezzo, due, e per una serie di questioni. E voglio dire, è riuscito anche a strappare un contratto da quasi 4 milioni di euro al City, sì, ecco. Sì, sì. È quello che dico, grandi contratti ma anche grandi responsabilità, quindi non possiamo paragonarlo a un ragazzo di 22 anni che fa delle stupidaggini in giro. Paolo, io ti ringrazio. Certo, grazie a te, grazie. Un abbraccio, grazie. Ciao. Grazie a Paolo Bargigia. Al volo Carmine da Reggio Calabria per Giorgio da Biella. Carmine, buongiorno, dica. Sì, buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo dire una cosa sulla Roma, io sono tifoso della Roma. Prego. Allora, c'è stata la polemica tra Baldini e Totti, dove Baldini ha detto chiaramente quello che pensava. Io sono pienamente e assolutamente d'accordo con Baldini e credo che la Roma, per poter diventare veramente una grande squadra e iniziare a vincere qualcosa, a parte gli americani, dovrebbe fare un'operazione molto semplice: liberarsi di Totti e De Rossi. Perché secondo me Totti e De Rossi, che sono due giocatori straordinari, però forse cambiando aria renderebbero meglio. Impediscono di voltare pagina. È chiaro che c'è anche una differenza, una profonda differenza anagrafica tra i due. E se Totti è stato la Roma negli ultimi lustri e fin qui, De Rossi potrebbe essere l'anello di congiunzione e il futuro, però è evidente che è difficile cambiare pagina con due giocatori così simbolici in squadra. Quindi capisco la sua osservazione, anche se non la condivido totalmente. Pier Giorgio da Biella, buongiorno. Buongiorno e complimenti, perché mi piace come trattate l'argomento calcio in maniera pacata e lasciate spazio a tutti. Bravissimi. Sì, grazie. Se posso, potrei dire una cosa sul che avete ricevuto un quarto d'ora fa da quel signore che diceva di mettere una pietra sopra Calciopoli. Allora, premetto che per i tifosi come noi, andare allo stadio, e noi vedevamo che Calciopoli c'era già prima che uscisse fuori Calciopoli, era troppo predominante il potere della Juventus, sia in campo che fuori dal campo. Io parlavo di ciò che c'era dietro la Juventus prima che succedesse, tant'è vero che tanta gente mi diceva: ma tu come facevi a sapere queste cose? Ma io sono uno che segue il calcio. Lei è interista? No, io grazie a Dio non sono tifoso di queste tre strisciate, quindi? Il male minore delle tre strisciate è l'Inter, ma non sono tifoso delle tre strisciate. Allora dici... perché secondo me le tre strisciate oltretutto sono tutte e tre molto prepotenti. Ma non delle calcio... strisciate, ma di chi? Io sono, grazie a Dio, sono granata. Mi sento un granata pro Cairo, perché addirittura Sì, sì. Mosca bianca assoluta. No, perché la gente, i tifosi del Torino, secondo me sono magari un po' più intelligenti degli altri, ma siamo tifosi, noi vogliamo avere risultati, giustamente. Ma i risultati, io sono andato allo stadio, sull'intelligenza. Tre anni fa, quando eravamo in Serie A, il Cairo ha fatto la squadra per rimanere in Serie A, ma abbondantemente. Dopodiché ci sono stati... Cairo ha sempre fatto delle costruzioni che non stavano in piedi, Pier Giorgio. Ci ha messo quattrini, volendo anche buona volontà, certamente non ha mai costruito delle squadre equilibrate. Lei è una mosca bianca, addirittura la mette sull'intelligenza. Noi del Torino siamo intelligenti, gli altri tutti stupidi. No, ma piuttosto io direi, va bene, non potremo dimenticare le zebrate, Calciopoli, la Rubentus, come dice lei, ma fino a quando si andrà avanti? Fino a quando ci faremo venire il torcicollo voltati all'indietro? L'ultimo cambio di campo di giornata, mi hanno raggiunto due ospiti e allora è il momento di provare per quest'ultima lezione a salire sul surf. Two girls for every boy. I've got a 34 wagon and we call it a Woody. Surf City, here we go. You know it's not very cherry, it's a goldie but a goodie. Surf City. Dunque mi ha raggiunto Mauro Dones, che dell'agenzia Reset, che è tra gli organizzatori del mondiale di surf che vedremo a novembre, dal 20 novembre sulle nostre spiagge. Dal 10 al 20 novembre. Tanto non lo imparerò Ciao mai. Carlo, buongiorno a tutti. Non lo imparerò mai. Dal 10 al 20 novembre a Levanton. Me lo faccio tatuare su un braccio. Dai che ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando, Mauro. Ti ho portato qui con me un nostro amico che è Andy Higgins. Sì. E lui è il garante, il responsabile di ASP per tutta quella che definiamo la parte tecnica dell'evento, sia i punteggi, i giudici, tutta la parte legata veramente al surf e non a quello che è l'organizzazione di un evento di questa portata. ASP, ecco. Ricordiamo, è l'UEFA del surf. Andy, buon pomeriggio e grazie. Ciao Carlo, come stas? Bene, tu? Bene, bene. Ti aspetto a fare il surf. Io arrivo, se riuscite ad insegnarmelo io ci arrivo. C'è anche un ospite che presento subito al telefono, che è Giorgio Restelli, che è tra le altre cose, oltre che una figura importante di Mediaset, un surfista. Giorgio, buongiorno. No, non dirmi che sono surfista perché mi vergogno. No, ci devi fare l'ultima lezione. Ciao a tutti, come state? Benissimo, benissimo, ci divertiamo. Mauro, lascia a te Andy per una domanda. Sì, io, Andy è arrivato stamattina, è partito alle 4:30 da Bilbao per raggiungerci qui a Milano, perché dobbiamo chiaramente andare a Levanto a organizzare, a fare e a produrre. Ma non gli ho mai chiesto una cosa. Andy, what do you think about Bear Pro, the first professional surfing event in Italy? I think it's fantastic. I think it's a historical moment in both the history of surf in Italy as well as in professional surfing around the world. Insomma, dice che è un momento storico per il mondo del surf italiano e lo è anche per il surf professionistico nel mondo. Italy is not very well known as a surfing destination, although from what I understand there's lots of really good waves here. L'Italia non è una destinazione famosa per il surf ancora, ma nonostante questo ci sono delle onde veramente eccellenti. So it's really good for the promotion of the sport in Italy, and I think the event should be fantastic for spectators as well. Crede che questo evento sia naturalmente importantissimo per la promozione del surf, di questo sport in Italia, ed è sicuro che sarà un appuntamento fantastico anche per gli spettatori che verranno a Levanto a partecipare insieme a noi a questo appuntamento. So I'm very excited to be here and look forward to working with everyone to make this event a great success. È entusiasta di essere con noi e di lavorare qui con tutti per far sì che questo diventi un evento di grande successo e appunto che il surf in Italia riesca a crescere come sta peraltro crescendo negli ultimi anni. E quindi dal 10 al 20 novembre a Levanto. Abbiamo anche dei contatti da dare ai nostri ascoltatori se vogliono. Sì, sì, mi piacerebbe avervi tutti fan della nostra pagina Facebook, che è Bear Pro World Longboard Title 2011. E, insomma, per informarvi quotidianamente, per aggiornarvi sul percorso di crescita e fino ad arrivare al grande appuntamento di novembre. Ecco. Siamo pronti, anche Giorgio Rastelli è pronto, credo. No, ma guarda, io ti dico, adesso te ne parlo veramente da... Tu mi hai detto sono surfista, ma veramente mi vergogno. Ma questo appuntamento di Levanto secondo me è straordinariamente interessante, perché intanto si sta diffondendo un po', forse anche con l'abitudine degli italiani di viaggiare molto di più di prima, no? Quindi hanno avuto modo di mettersi in contatto anche con questa realtà, perché poi dopo ti capita di arrivare in luoghi in cui lo vedi praticare e devo dirti che è di una spettacolarità incredibile. Io nel mio specifico ho iniziato a Bali, perché sono arrivato in questa spiaggia dove c'erano sti ragazzi australiani e giapponesi che lo praticavano. Ed è una cosa entusiasmante già da vedersi, perché comunque, poi è vero, sono convinto che in Italia ci siano dei luoghi in cui ci siano delle onde anche, fra l'altro forse anche più abbordabili rispetto a certe altre situazioni che sono più estreme, che puoi trovare in giro per il mondo. Però ti dico, sia poterlo vivere guardandolo, ma poi dopo anche superare lo scoglio del provare e buttarsi in acqua e farlo, devo dirti che io ci sto, caro Giorgio, ci sto provando ormai da un mese, ancora non mi riesce. Quanto ci hai messo ad imparare? Guarda, io ti dico, siamo andati con due amici, fra l'altro, tanto per dirti quanto può essere trasversale questa cosa, perché non è che devi appartenere a una tribù per fare il surf. Sì. Il surf è una cosa che puoi praticare esattamente come pratichi qualunque altro tipo di sport. Poi è chiaro che ha delle sue regole, ci sono delle cose che devi saper osservare, però vabbè, questo in qualunque momento tu approcci uno sport è così per tutti. Io ho iniziato a Bali, ti dicevo, con due amici, uno fa il gioielliere e quell'altro fa il dirigente d'azienda anche lui, quindi proprio tutto meno che tribù. Sì. E ci siamo buttati in acqua, ci hanno dato queste belle tavolone che sembrano dei monolocali, perché in confronto a quelle che usano loro, che sono speedy, che sono diverse, insomma, ci siamo buttati in acqua. E alla fine della giornata, sfranti, perché eravamo distrutti, perché è uno sport che comunque richiede anche un buon minimo di preparazione, di fisica, eccetera, ci vuole, però ti dico, io ti sto parlando da vecchietto, ho 55 anni, quindi mi ci sono buttato dentro che ne avevo già oltre 50, e però la prima volta che ci ho impiegato qualche ora a uscire la prima volta. Sì. La prima volta sull'onda qualche ora, cioè un'oretta e mezza, due. Sono uscito quelle 4-5 volte, cadendo, cascando, ritornando fuori, però quando sei lì sopra e senti questo contatto che hai con l'onda e come ti muovi, è meraviglioso. Ah. Meraviglioso, e ti impone di ritornare dentro, anche se sei sfranto. Sì, sì, sì, sì, sì. Come ci diceva Sergio Muniz, la più meravigliosa delle droghe pulite, no? Sì, beh, assolutamente. Le benzine per la mente. Assolutamente, assolutamente. Beh, Sergio è bravo, per esempio. Bravo, sì. È bravo, è giovane ed è delicato anche. Io ti dico, lo so molto meno di lui, però tanto questa settimana finisco venerdì, no? Poi a tempo di sport si ferma fino al 20, grosso modo, 20 di agosto, mi dedico duro al surf. E quindi tu sì. Muta e via in acqua. No, niente, muta, mica freddo. No, è bellissimo, guarda, veramente. Io a chi ci ascolta e ha il desiderio comunque di provare, provatelo, perché comunque in qualunque modo uno lo pratichi, sai, non è che poi bisogna avere sempre l'eccellenza in tutto, no? No, ma è chiaro. Ma è uno sport, l'importante è divertirsi nella vita, anche parlando di sport, secondo me l'importante è divertirsi. Poi qualcuno vorrebbe che parlassi di sport in maniera più seria, non mi riesce. Io mi voglio divertire, anche quando... No, ma io apprezzo molto invece come ne parli tu, perché comunque secondo me lo spirito dello sport è questo. Poi nelle varie... Cioè, voglio dire, già ci prendiamo sul serio in molti altri aspetti della vita. E già sbagliamo anche in quello, quindi bravo. Voglio dire, figuriamoci nello sport. Poi voglio dirti, come tutte le cose, è bello vedere chi riesce a rappresentare un livello alto di una espressione che può essere di qualunque genere, che può essere, sì. Voglio dire, a tutti piace cantare e non è detto che tutti poi diventino delle rockstar. Però questo non toglie il piacere che si possa provare nell'interpretare una canzone o di cantare anche mentre uno si fa la barba. Bravissimo. Secondo me è lo stesso spirito, sei in contatto con la natura, hai una tavola sotto di te, sei immerso nell'acqua, hai il mare che ti muove, e ti muove fuori, ma ti muove anche dentro. Ma è meraviglioso, credo io, no? Cioè, lo è, lo è. Giorgio, ti ringrazio, è stato davvero un piacere. No, mi ha fatto piacere sentirvi, vi auguro e auguro a tutti una buona estate e insomma. E noi ci proviamo, eh? Assolutamente, ci riproviamo tutti i giorni. Penso che ho questo messaggio, Daniele da Viareggio, surfista, babbo e bancario, il surf ti invade e ti libera, per me ora è come l'aria, scrive Daniele. È bellissimo, c'ha ragione, guarda, se tu vedi là dove hai praticato di più, come vive la famiglia anche il momento del surf, e quindi questo fatto appunto, come diceva lui, babbo, no? Mi sembra che abbia scritto babbo e bancario, babbo e bancario, ecco, babbo e bancario, e sarà bellissimo che lui sia in acqua, i figli che lo guardano e poi vanno dagli amici, oh, mio papà fa surf, ma va davvero, esatto, figo, esatto. Grazie Giorgio, devo chiudere. Un abbraccio a tutti. Grazie, grazie ciao, davvero a Giorgio Rastelli. Io ringrazio anche Andy, il nostro ospite, ringrazio Mauro Dones e l'appuntamento è il 10 novembre all'Evento dei Mondiali di Surf, ma tanto avremo modo di parlarne ancora molte volte e molto a lungo, ve lo assicuro. Vi saluto tutti quanti con l'ultima puntata di oggi della storia. Pato e Barbara finirà così. A domani. Ciao papà. Che cosa c'è? Che ne diresti se venissimo giù in aereo a passare la sera con te? Stasera? Potremmo arrivare alle 6:30. Ci era venuto in mente di portare te e la tua fidanzata a pranzo in qualche bel posto. Ma poi io di venire a pranzo. Aspetta un momento. No, no, papà, vedi, stasera sono a pranzo dai suoi genitori. Sì, sono invitati a pranzo da noi. Penso. Mr. Prentice, volete venire a pranzo da noi stasera? Veniamo a prendervi all'aereo. Ma che cosa dici, Giovanna? Cosa impasticci? Papà... Pare che lei ci voglia anche se tu non ci vuoi. E anche noi ci teniamo tanto a conoscerla. Oh, papà... E allora ci vediamo alle 6:30, eh? Ciao. D'accordo, John, ci vediamo papà, stasera, senti. Eh? Ciao. Papà. Papà. What?